Perché so tante cose di Maurizio? Perché a Maurizio piace Nathalie. E perché so che gli piace Nathalie? Adesso ve lo dico. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 7 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. La gelosia non è uno stato d'animo, la gelosia è un malessere. È qualcosa che non ti permette di pensare diritto. Ogni volta che rifletti sull'oggetto della tua gelosia, non fai mai un ragionamento veramente compiuto. Cioè non è che stai in piedi con le proprie gambe. Zoppica. È qualcosa che per camminare ha bisogno di appoggi continui. Ha bisogno che qualcuno gli porga un braccio per appoggiarcisi. Di solito, quel braccio è il nostro. Siamo noi che troviamo il modo per fare camminare quel sospetto. Sempre un passo davanti a noi. Facciamo in modo che ci preceda. Anche di pochi passi, eh. Solo che così facendo è lui che imposta la strada per noi. E qualsiasi cosa ci troviamo su quella strada, noi pensiamo non sia altro che una prova. È sufficiente che lui ci dica che ha un appuntamento, che fa tardi per una riunione, o che lei ci annunci che esce con le amiche, che stasera non ci si può vedere perché deve finire di studiare, di lavorare, di pulire la casa. È sufficiente questo. E poi ci sono gli amici e i colleghi. Quelli che passano molto tempo con la persona che vorremmo sempre avere a fianco. Quelli che ci sembra gli stiano un po' troppo vicino, troppo di frequente, che mandano troppi messaggi, che fanno troppe telefonate. Sono quelli di cui, quando sentite parlare, vi sembra di percepire una leggera incrinatura nella voce di vostro marito, di vostra moglie, del vostro fidanzato. È impercettibile, però la sentite. E sapete una cosa? Probabilmente non è la vostra fantasia. Probabilmente quell'esitazione nella voce c'è stata. Però, perché c'è stata? Perché ci tiene quella persona o perché sa che voi ne siete gelosi e quindi è condizionato quando la nomina? Ecco, io questa situazione la sto vivendo e mi sento un po' un cretino. La conoscete questa situazione, vero? Ecco, se la conoscete, sapreste dirmi chi è quella persona che sta un po' troppo vicino al vostro amore? Se volete raccontarmelo, io sono qui. E se io sono qui, il numero è sempre quello. È 800240024 per telefonare in diretta oppure 349-238-6666 per mandare i messaggi in diretta e per farli leggere a me. Di messaggi ne sono già arrivati. C'è un profilo Facebook, come vi spiego tutti i giorni, che si chiama Matteo Caccia, io sono qui. E dove il programma è anticipato e prosegue. Spesso le cose che vi racconto qui le trovate lì e spesso le cose che sto per raccontare qui le trovate sempre lì. Non chiudeva bene la frase, però comunque diciamo che le trovate lì. E per cui mi hanno scritto uomini e donne, indipendentemente. Allora, Lucia: premetto, non sto più con questo tipo da anni e quindi scrivo senza rancore. Ma lei, uno, aveva una straordinaria capacità di indovinare le date dei miei viaggi per regalare a lui biglietti di concerti che si tenevano sempre all'indomani della mia partenza. Due, era una prodiga dispensatrice di consigli sull'opportunità di viaggiare con la fidanzata perché, per tre virgolette, se litigate in viaggio rovinate tutto, no? Tre, era la sua migliore amica. Io dubbiosa, lui, ma figurati, ma no, ma guarda, ma è sempre così disponibile, proprio è carina. E poi credo che stia con uno. Ora i due sono felicemente fidanzati. 800240024, ancora Dina. Anni fa una giovane pilota di aerei lasciava occasionalmente sul barabrezza dell'aereo che pilotava mio marito dei bigliettini che inneggiavano a nuvoli, a nuvole, angeli, eccetera eccetera. Apparentemente tutto innocente e poetico, ma non mi sono mai fidata e la marcavo da vicinissimo affinché lei se ne accorgesse. Ma scusami, i piloti si lasciano dei messaggini sul parabrezza dell'aereo? E poi com'è che lo tengano fissato? Con il tergicristallo? C'è il tergicristallo al di fuori dei parabrezza. Maddi, quella di Maddi è proprio è la descrizione perfetta. La mia, la definisce così, che è evidentemente il suo tormento, si chiama Martina, classe 91, iscritta al primo anno di chimica dopo aver fallito il test di medicina, e ci tiene a sottolinearlo. Abbastanza carina, punto. Odiosa, punto. Sempre in giro, impossibile non incontrarla. In perenne contatto con il mio fidanzato con qualsiasi mezzo. Descritta come... ma no, ma guarda, è solo un'amica. E anche con un... ma fa così con tutti. Quando la incontriamo, saluta lui, ma me no. 800240024, ce l'avete presente, no? che vostro marito torna a casa, vostra moglie torna a casa e vi racconta della giornata di lavoro. E poi fa un accenno a quella collega, a quell'amica, ancora una volta. Voi siete tranquilli, anche lui è tranquillo. Però l'avete inquadrato. Avete presente l'identikit? Ecco, raccontatemelo. 80024 0024 349 238 6666. E sapete perché vi chiedo di farlo? Perché io, l'identikit, ve lo faccio, il mio, adesso. Ve la ricordate la storia che chi lavora in Croce Verde o per un ONG lo fa anche un po' per imbroccare? Eccoci qua, ci siamo. Ho pescato chi si vorrebbe fare Natalì. Niente meno che il presidente. Non sto parlando del presidente quello vero, No, sto parlando di Maurizio, quello che dirige la baracca per cui Natalì sta già girando le strade in cerca di fondi. Dunque, Maurizio è buono. L'ho visto di persona. Assomiglia un po' ad Anthony Hopkins, però senza quella luce pericolosa nello sguardo. Non è né giovane né vecchio, semplicemente è nel pieno della sua maturità. Maurizio sa parlare con i capi di Stato, tanto quanto stare al freddo e chiedere soldi ai passanti. Maurizio è alto e di buona famiglia. Maurizio parla 5 lingue e ha un bel ciuffo sulla fronte. È brizzolato, ma è molto atletico. Maurizio ha studiato all'estero, ma è tornato, perché lui ama l'Italia. Maurizio era una promessa del calcio, però ha smesso perché è un mondo che gli sembrava immorale. Maurizio indossa solo vestiti firmati perché quelli lì usano tessuti che derivano da coltivazioni eticamente sostenibili. Maurizio è sempre in missione, in Somalia, in India. Maurizio vola in first class perché lavora anche quando viaggia, ovviamente. Maurizio al polso ha un Cartier che è un regalo di suo nonno, un orologio di cui non si libererebbe mai. Come ha detto ieri Natalì, citando Bruce Willis in Pulp Fiction, perché quell'orologio lì ha una storia. Maurizio non mette la maglia della salute. Maurizio vive a Roma, ma ha una casa in Corso Magenta a Milano. Maurizio ama l'arte e quando può va a vedere un Caravaggio. Maurizio si paga i biglietti di ingresso ai concerti di tasca sua. Ha fondato la sezione italiana della ONG per cui Natalì lavora, mentre finiva di scrivere un libro, ovviamente, su come la bolla speculativa dei subprimes ha messo in ginocchio l'economia mondiale. Maurizio ha rifiutato una cattedra a Yale perché crede che il suo posto sia al fronte, cioè tra i bambini che muoiono di fame. Maurizio compensa l'anidride carbonica prodotta dal suo sito internet pagando per la tutela di un pezzo di foresta in Costa Rica. Maurizio tifava Milan, ma prima che Berlusconi diventasse il presidente, ed allora tifa il Chievo. Maurizio ha un doppio cognome. Maurizio era in Ruanda ad appiccicare le braccia ai bambini perché dopo la laurea in economia ha fatto degli studi in medicina. Maurizio ha un solo difetto: è leggermente miope. Voi vi domanderete perché so tante cose di Maurizio. È chiaro, perché lui vuole andare a letto con la mia fidanzata. E perché so che vuole andare a letto con la mia fidanzata? Perché in 2 giorni che lei lavora lì, Maurizio ha fatto già in tempo a fornirle tutte queste informazioni su di lui, che sono sicuramente fondamentali per una neoassunta. Però, insomma, forse se ha così tante cose importanti da fare, potrebbe usare meglio il suo tempo, no? Mettiamola così. Se lei non fosse la bellezza che è, non avrebbe nemmeno rivolto la parola. And such a nice man to you, but so obscene, and it's true, girl. You only go around, round, round. You only go around, round, round. You only go around, round, round. You only go around, round, round. Jackie Bakes it. La vita di Maurizio è donarsi. E questo l'ho capito. Solo che lui lo fa con un certo criterio, cioè non si dona a tutti indiscriminatamente. Maurizio è uno che sa che cosa vuole. La gente stravede per lui e quando scende in strada tra i suoi ragazzi che fanno la raccolta fondi, loro vanno in visibilio. E ovviamente anche Natalì c'è cascata. Ecco perché continua a parlarmene come se fosse Sai Baba. Io sulle prime ascoltavo anche interessato, perché tutto sommato a me fa piacere che ci sia della gente che si occupa degli altri quando nessuno la obbliga a farlo. Col passare del tempo però, questo Maurizio l'ho capito. Perché siamo della stessa pasta, cioè quella di cui sono fatti gli uomini. La pasta che incontrare il Dalai Lama è bello, ma quando hai una bella ragazza davanti agli occhi è difficile pensare al buddismo. Maurizio dopo tanti anni mi ha fatto riscoprire la gelosia. E ora mi sento come Otello. E la mia Desdemona mostra il suo fazzoletto ingenuamente, senza nessuna malizia, perché lei è una donna ed è giovane e non sa che la sua passione per la causa e per l'uomo che la incarna molto presto prenderanno la forma di un forte desiderio sessuale. E lì hai voglia al Dalai Lama. Maurizio ha degli obiettivi da raggiungere e non mi stupisce sapere che era stato direttamente lui a farle il colloquio. Quello che so è che la purezza di Nathalie non sarà violata dalla sporca bramosia di un uomo che prima di uscire dalla sua casa di 200 metri quadrati nel centro di Milano mette un profumo equo e solidale. Non sarà Maurizio a portarmi via la donna che amo. Ammetto, un po' Nathalie mi commuove perché nella sua innocenza continua a descrivermi per filo e per segno tutte le prodezze di un uomo che col passare delle ore immagino sempre più spesso appeso per i piedi mentre io lo finisco a colpi di punteruolo. L'amo, per cui non me la prendo con lei. Lei è l'oggetto inconsapevole del malefico inganno che i nostri sensi e il nostro cuore instabile ed eternamente mutevole ci giocano non appena ne abbiamo la possibilità. E che non posso fare altro che cercare una via d'uscita. Per lei, per me e anche per Maurizio. Che probabilmente nella vita avrà avuto più amanti del Re Sole, ma non ha mai avuto un antagonista come me. Sono un uomo innamorato e sono pronto a tutto. Anche a gettare la carriera di Nathalie alle ortiche, se necessario. Che poi, a dircela tutta, in fondo, quel che sta facendo è la carità per strada, che per farla non c'è bisogno di una laurea, anzi, se ti mancano una gamba e un occhio, forse sei anche più efficace. Non so come, ma il lavoro di Nathalie per la ONG che si occupa di alimentazione nei paesi in via di sviluppo e soprattutto in Africa, temo che stia per finire. Lo faccio per lei, eh? La gelosia è una complicazione dell'amore. D'altronde, le malattie non hanno mai fatto bene. Tuttavia, anche adesso, nonostante tutto, spero di non guarire. Se Maurizio è davvero così, mi spiace tanto per te, Matteo. Igor, 349-238-6666 800-24-0024. Sono arrivati altri messaggi. Si chiama Silvia. Ho scoperto due mail sospette. Tu che dici, Matteo, dovrei dirlo alla persona con cui sto che le ho guardato la posta. Questo, ragazzi, non chiedetelo a me. Il dubbio che mi stia tradendo e mi sta uccidendo in questi giorni è Elisa. Non so veramente cosa risponderti. Ballo tango con mio marito e mi diverte molto. Quella si fa invitare, cosa che la donna non deve fare nel tango. Quando ci incontra attacca a parlare con lui, a me manco mi saluta. Ovviamente lui le dà retta e questo mi rode. Ciao Eli, che starà per Elisa o Elena. Prima però di sentire anche magari qualche telefonata riguardo a questo, riguardo proprio all'identikit della persona che sta un po' troppo vicina a vostro marito e vostra moglie, anche se, ma no, figurati, non ti preoccupare, no, sono un collega, no, fa così con tutti, non è proprio simpatico così. Prima di prendere telefonate e di leggere qualche altro messaggio, vorrei farvi un piccolo elenco, proprio perché oltre a lavorare fianco a fianco di Maurizio, Nathalie ha cominciato a fare questo lavoro nuovo. Consiste nello stare in strada, fermare le persone e dire buongiorno, scusi, ha un minuto per cortesia, ma non chiedono soldi, cioè è una raccolta fondi per cui le persone che passano, se sono interessate a partecipare al programma di questa ONG, che cosa fanno? Lasciano i propri dati, dando o la carta di credito o un bonifico, e decidono di dare una donazione. La donazione può essere unica, può essere mensile, insomma, come vuoi, però non è che ti chiedono l'elemosina per strada. Ieri, quando è tornata a casa, era abbastanza scossa per il tipo di risposte che le persone le hanno date, e allora ho detto, fai una cosa, fammi un elenco. E questo è l'elenco che le persone hanno risposto alla domanda, buongiorno, ha un minuto per cortesia? Guardi, sono un avvocato, al mio primo processo, mi scusi, ho fretta. Senta, io pago il canone della Rai, pure Sky, devo tirare fuori altri soldi? Guardi, ho già adottato un bambino. Buongiorno, ha un minuto per cortesia? Ma a lei la pagano per fare questo lavoro? Mi scusi, ma piove. No, guardi, io i libri non li leggo. Sempre la domanda, ha un minuto per cortesia? Bravissima signorina, però io sono una catechista, devo andare. Voi pensate di aiutare i poveri bambini italiani, che siamo messi male anche qui? Signora, abbiamo progetti anche in Italia, in Puglia, in Sicilia. Ah sì? Beh, ma la Puglia non è in Italia. Questo a Milano, ieri in centro. Ancora, scusi, a un minuto. Guardi signorina, c'è mia suocera che fa già del volontariato. Mi scusi, ma sono figlio unico, non mi interessano gli altri. Questa io non ci credevo quando me l'ha raccontata. E ancora, scusi, a un minuto per cortesia, ma è medico? No, perché sa, io ho un problema. Più avanti ve ne leggo altri. Adesso invece volevo sentire, volevo tornare all'identikit della persona che sta un po' troppo vicino alla persona chiamata. E quindi facciamo in tempo, sì, facciamo in tempo. Sentiamo Francesco da Milano. Pronto Francesco? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Abbastanza bene, va, diciamo di sì. Sei un po'... giornata faticosa. Come mai? Ma un elenco di situazioni negative. Da... Lavoro comunque? No, più personali, furto di un portafoglio, cose così. Va bene, ma andiamo Francesco, andiamo al dunque. Andiamo, tu sei sposato o sei fidanzato? Io sono convivente. Convivente, da tanto tempo? Sì, qualche anno. C'è una persona che sta un pochettino troppo vicino alla persona che sta vicino a te? Sì, è il suo ex marito. E come mai lei lo fa stare così vicino? Perché sta male, ha bisogno? No, perché vabbè, ovviamente come succede quando si ha un figlio in comune da condividere, si condividono molte situazioni, insomma. Però devo dire che loro, per carità, va benissimo, ma diciamo che la loro storia è finita molto bene, perché hanno un rapporto amichevole molto buono, e a volte a me sembra un po' troppo buono, e non nascondo fammi che un esempio, cosa mi turba. Lo immagino, fammi un esempio di frase per cui lei ti dice, ma guarda, ma non ti preoccupare, ma no, ma è perché semplicemente è fatto così. No, mi dice, tu non puoi capire... che tipo di rapporto c'è tra di noi, è qualcosa che non si può spiegare, che le persone comuni non possono capire. Ok. Grandi linee. Sì, ho capito, insomma, perché evidentemente loro non si considerano persone particolarmente comune. Tu fai qualcosa di particolare per evitarlo oppure hai deciso di lasciar stare? Sì, io ho deciso di cercare di cambiare stanza quando ad esempio... sento una loro comunicazione telefonica che di solito è molto brillante, sorridente, ma che sai, da un punto di vista razionale va benissimo, perché insomma, anzi, voglio dire, sono fautore della positività nei rapporti, però non nego che a me la cosa dà molto lo fastidio. Immagino. Francesco, ti ringrazio molto, fai una buona giornata e riprenditi soprattutto per il resto, che mi è sembrato di capire che la giornata non è andata un granché. Per niente bene. Grazie. Okay. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao. È arrivato un messaggio di Paolo che mi dice: il mio vicino, sposato con figli, dato che finiva presto il lavoro, continuava ad invitare mia moglie per il caffè verso le 17, quando a casa non c'era nessuno. Quando mia moglie me l'ha detto, l'ho messa in guardia, ho detto guarda che ci vuole provare, ma lei mi dice: ma no, figurati, non è possibile, è sposato con dei figli. E io: vedrai che ho ragione. Mia moglie comunque non ha mai accettato. Dopo un anno si è venuta a sapere che sua moglie ha scoperto due o tre amanti sul luogo di lavoro, due o tre amanti tra le amiche. Tenete sempre gli occhi aperti, avvisa Paolo. E poi mi scrivono: la mia ex diceva che la mia amica era un po' troppo amica, l'ho detto all'amica che mi ha rassicurato, tra di noi non c'è alcuna attrazione sessuale, ora l'amica ed io abbiamo due splendidi bambini. Adesso sentiamo la borsa e più tardi torniamo, l'identikit della persona che sta un po' troppo vicina alla persona che amate, e poi un grande pezzo di letteratura. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. E sto qui. Nella foto di oggi siamo in una città del centro del nostro paese. È una città in cui sono stato e che ho riconosciuto subito, almeno per una volta, appena ho visto questa foto. È una città gentile. È una città in cui le persone parlano una lingua un po' strana, che non si capisce esattamente che cosa sia, perché non è del centro, non è del centro nord, non è del centro sud, e ci metti un po' a entrare in contatto con queste persone. Loro non sono proprio istintivamente amichevoli. Però poi è la solita vecchia storia, che quando le conquisti, le hai conquistate. È una strada, è una città fatta di strade che salgono e scendono. È una città che arriva da un periodo storico che noi conosciamo. È una città che arriva dal Medioevo, in cui tutte le cose raccontano di quella storia lì. È una città che si trova su un cocuzzolo ed è in mezzo al verde. Sono Giovanna Zavattieri, ho 45 anni e vivo a Perugia da appena un anno. Credo che qui sia possibile realizzare i nostri sogni. Almeno io ci credo. Io sono qui. Io non lo so se a Perugia sia veramente possibile realizzare i propri sogni, però è una città che credo andrebbe frequentata molto di più di quanto non sia frequentata, forse per il fatto che è difficile da raggiungere Perugia, che in treno arrivarci è un delirio, in macchina anche, anche in macchina, a differenza di altre città, però è un posto che consiglierei, un po' come Foligno, città natale di Tiziano Bonini, che, no, Tiziano, è un po' bistrattata Foligno, vogliamo dirlo. Non come Perugia, però quasi ci siamo. Io ringrazio per questa foto che è bellissima. Questa foto, per chi magari avesse cominciato a frequentare questo programma da poco, è semplicemente un modo per chiedere anche a voi di raccontare del luogo in cui vi trovate, visto che io tutti i giorni faccio un punto della situazione e continuo questa storia che vi racconto quotidianamente in diretta. Mi piace immaginare che attraverso uno scatto voi possiate raccontarmi dove vi trovate o dove vorreste essere, con il corpo o con la mente. Io sono qui, @radio24.it, per mandarmi le vostre foto, oppure caricatele sul profilo Facebook, Matteo Caccia, io sono qui. Un'altra cosa che continuate a fare, e vi ringrazio, è inviarmi dei brevi racconti, visto che ognuno può avere voglia di raccontare il luogo in cui si trova o la situazione in cui si trova attraverso una foto, attraverso un disegno, anche se fosse il caso, anche se è un pochettino più difficile da spedire, ma soprattutto attraverso delle parole messe insieme, attraverso dei racconti. Voi me le state già mandando, e io vi chiedo di continuare a farlo, perché stanno venendo delle cose molto molto interessanti. Io sono qui, @radio24.it. Però c'è un messaggio di uno che mi scrive: questo della prima telefonata è fregato. Io spero sinceramente di no. E poi c'è un altro messaggio di Cinzia che scrive: lei è una farmacista, lui ha la casa piena di campioncini di creme, si scrivono messaggi tutti i giorni, mi dice che è un'amica, virgolette, di famiglia, virgolette. C'è però Mario da Pistoia che sta aspettando da un po'. Pronto Mario? Pronto, ciao. Ciao, Matteo, perdonami per l'attesa, ma siamo qua. Sicuro. Raccontami un po'. La seconda parte del tuo racconto mi si calza proprio a pennello. Mario, lo sento, anche un pochettino dal tono di voce abbacchiato, Mario. Sì, perché no, il fatto è successo un po' di tempo fa, però anch'io ero, di base sono abbastanza geloso. Sì. Un po' di tempo fa io vedevo questa persona parecchio simpatica, estroversa, io sono invece... Tu sei un po' chiuso, Mario. Un po' introverso. Un po' si sente. Ma che cosa fai nella vita, Mario? Perdonami. Tecnico, un po' così, giro un po' il mondo riparando. Come un po'? Mario, ti prego, guarda, mi stai commuovendo, stai su, stai un po' più su. No, è che ripensando, adesso sono molto più tranquillo, insomma, si parla del passato, però ripensandoci è stato un colpo piuttosto duro, perché, diciamo... il mio fatto, diciamo, poi si è concluso con il tradimento, quindi anche se poi l'abbiamo superato, quindi ci avevi ragione tu, Mario, tutto sommato. No, in realtà no, perché io sospettavo di questa persona parecchio estroversa, che si esponeva, certo, giocavano, scherzavano, li vedevo insieme, ero geloso un po' di questo suo modo di fare, di questo rapporto che avevano. E poi invece era il collega accanto. No, Mario. Mi ha fregato. No, aspetta un secondo, Mario. Cioè, tu avevi centrato un target che era sbagliato. Esatto. Era quello estroverso. Non era quello estroverso. Com'era l'altro, Mario? Tipo te. Sempre estroverso, però più maturato, più... Mario, senti, tu ci stai ancora con questa persona? Sì. Ah, sì, perfetto, sì. Ok, tutto a posto. Sì, Mi dici solo l'ultima cosa, sei tecnico di che cosa? Apparecchiature elettroniche, ora puoi entrare nello specifico? No, mi basta questo. Mario, ti saluto, però ti lascio veramente con un invito, su, stammi sì, su. Sì, sì. Bravo, ciao, okay. Ciao Mario, grazie, buona giornata. Ero geloso di questo ragazzo al quale lei scrive molto in continuazione. Una sera mi ha convinto ad uscirci a cena e lui si è presentato con il suo fidanzato. Sergio, andiamo, ce l'abbiamo il tempo? Sì che ce l'abbiamo, andiamo da Christian da Modena. Pronto Christian? Pronto. Ciao. Ciao. Vai pure. È un pochino imbarazzante la cosa, insomma. Però hai chiamato tu, Christian. Sì, io ho mandato un messaggino, ma avete richiamato. Dimmi, niente, dimmi. È successo che circa un anno e mezzo fa, sì, mia moglie è iniziata a uscire con quello che è il mio dipendente, perché andavano a ballare, così uscivano poi con tutti con gli altri amici. Sì. Però insomma le coincidenze dopo un pochino hanno iniziato a pesare, finché insomma vari liti in casa, adesso sembra tutto... vincolata la cosa, insomma, però insomma dei magoni se ne sono andati giù parecchio. Ma il dipendente lavora ancora per te? Sì. E che cosa fai tu, Christian? Un mestiere molto antico, il calzolaio. Fai il calzolaio? Sì. Ma in questo momento sei in calzoleria, in laboratorio? No. Oggi no, perché ho un negozio vicino al centro commerciale e oggi il mercoledì teniamo chiuso. E quanti dipendenti hai? Due. Ah, l'altro è una donna. Sì. Sì, davvero. Casa in maternità. Ah, ok. Christian, grazie mille, in bocca al lupo, una buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. L'ultima telefonata, andiamo, mi scuso con chi non riesco a prendere, andiamo a Pisa da Simone. Pronto, Simone? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene. Sei su di morale tu? Sì, sono a Pistoia. Bravo, raccontami velocemente la tua storia. No, io convivo, cioè io sto con questa ragazza da 10 anni, convivo da 3, sì. E sono sempre stato geloso marcio da sempre. Sì. Però sono arrivato a un punto che mi sono accorto di una cosa, che tanto io non ci posso fare niente. Io posso essere geloso quanto mi pare, ma la situazione non cambia. Hai raggiunto questa consapevolezza, Simone. Sì, infatti. Quindi? Ora la ragazza va tranquillamente a ballare tutti i venerdì sera da solo, latinoamericano. No. E io... latinoamericano no. Allora, Simone, ti prego, fai qualcosa, ma non per la gelosia. Ma latinoamericano andava di moda negli anni 90. Ma infatti ci va lei, mica io. L'ho capito, ma portala sul sul tango, che adesso il tango è un pochettino. Ma poi lei di conseguenza va a ballare, cioè fa dei corsi oppure va proprio a ballare? Sì, a corsi che poi va a ballare. Insomma, non si fa mancare proprio niente. Ti chiede anche di andare tipo a Santo Domingo poi, oppure? No, per lo senso. Ok. Per me prima era impensabile, poi piano piano ragionando, tanto se mi vuole tradire non è che deve per forza andare a ballare può trovare il primo che capita. La saggezza oggi è arrivata tutta dalla Toscana. Simone, grazie mille. Ciao. Ciao, buona giornata, grazie. Non abbiamo più tempo, però c'è un pezzo che vi voglio leggere, ne avevo parlato un attimo fa. Quando si parla di gelosia si pensa sempre ad un testo in particolare, ed è esattamente quello che state pensando. Sono poche righe, delle battute di un personaggio che parla esattamente della gelosia, ne parla facendo finta che non sia importante, ma in realtà dandole una grande importanza. Non vi dico chi è per due motivi. Primo, perché lo capirete voi. Secondo, se invece non lo capirete voi, andate sul profilo e ci sarà postato tutto il discorso e la risposta. Guardatevi dalla gelosia, mio signore. È un mostro dagli occhi verdi che dileggia la vittima di cui si pasce. Vive felice il cornuto che, conscio della propria sorte, non ama colei che lo tradisce. Ma che vita d'inferno per chi è innamorato mentre pur dubita e sospetta al medesimo istante che adora. Buon Dio, libera dalla gelosia le anime dei miei amici. Ma mio signore, tenete d'occhio vostra moglie. Studiatela quando è con Cassio. E che i vostri occhi non siano né gelosi né troppo sicuri. Non vorrei che la vostra natura così nobile e aperta si lasciasse ingannare per la bontà. Dunque attento. Riconosco bene i miei conterranei. A Venezia le donne confidano al cielo i capricci che non osano mostrare ai mariti, e la loro onestà non consiste nel non fare una cosa, ma nel tenerla nascosta. Vorrei persuadere vostra grazia a non investigare più oltre in questa faccenda. Lasciate fare al tempo. È giusto che Cassio riprenda il suo comando, perché effettivamente lo regge con grande capacità. Tuttavia, il tenerlo lontano ancora un poco potrebbe servirvi a capire meglio l'uomo e i suoi espedienti. E osservate se la signora seguita per orare per lui. Da ciò si potrebbero arguire varie cose. Ma, in conclusione, pensate anche che io esagero nelle mie paure, come io stesso ho buone ragioni di temere. E vi supplico, giudicatela innocente.